ora in onda, qua e là, tra una novità e l'altra. Angelo Arduino e Mario Lombardo, una felice giornata ai nostri radioascoltatori. Come sempre un saluto particolare va ai nostri connazionali che ci seguono in ogni parte del mondo sul sito www.crmepiradio.it. Oggi abbiamo in studio, e li ringrazio per questo, il dottor Ildebrando D'Angelo, Livio per gli amici, il quale ci parlerà di un trattamento aorta che è stato fatto all'ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù. Ringrazio per questo il giornalista Vincenzo Lombardo che mi ha fatto da tramite per questa intervista. Abbiamo in studio l'avvocato Vito Punzi, presidente dell'AUSER. Ci raggiungerà tra poco il commissario superiore e comandante del distaccamento della forestale di Lascari, il Roberto Pecoraro. E nella scaletta di oggi è previsto anche un incontro con in studio con Piero Vazzana, che cura la quarta cronoscalata automobilistica autostorica Cefalù Gibilmanna, ed Enzo Cortina, organizzatore insieme a Perito della Sagra del Pesce Azzurro. Sia nella Sagra del Pesce Azzurro che per le auto storiche sarà presente la radio in diretta, per le auto storiche il 6 e il 7 ottobre. Per la diretta radio di CRM andrà questa sera invece per la Sagra del Pesce Azzurro. Dico questa sera perché è domenica e questa trasmissione viene replicata lunedì alle ore 13:15. Ma dopo aver ringraziato Ildebrando D'Angelo, vorrei chiedergli, all'ospedale di Cefalù c'è sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di sperimentale, qualcosa che voi cercate di fare per venire incontro ai malanni, ai tumori, ai malanni, e in particolare tu, per venire incontro appunto a questi malanni che tengono l'umanità in crisi. Ecco, Livio, di che si tratta? Innanzitutto ringrazio te, Angelo, per l'opportunità che stai dando per rispondere questa informazione, e credo che sia piuttosto importante questo messaggio in questo momento particolare, dove attorno al San Raffaele Giglio si respira aria di crisi legata al momento istituzionale che stiamo vivendo. L'ospedale è in piena attività, non è assolutamente in discussione la sua capacità di cura e di diagnosi, e anzi io credo che questo debba essere un ulteriore incentivo per la nostra cittadinanza e per chi approfitta appunto delle cure, della diagnosi presso il San Raffaele Giglio, per continuare a credere in questa struttura che tanto bene sta operando sul territorio. Fatta questa premessa, che mi sembra abbastanza importante proprio per dare un segnale di presenza viva sul territorio, quello che abbiamo fatto nelle settimane scorse sono stati dei trattamenti IORT. Che cos'è questo trattamento IORT? Terra-terra per i nostri radioascoltatori. È una radioterapia fatta contestualmente all'intervento chirurgico, è una procedura particolare che viene fatta con una macchina dedicata, e questa macchina dedicata è usufruibile presso il San Raffaele Giglio grazie al laboratorio di alte tecnologie oncologiche, lato CNR, che è appunto di cui a cui è intestata la macchina, quindi l'attrezzatura è utilizzabile soltanto grazie alla disponibilità fornita da lato e CNR. Radioterapia intraoperatoria che viene fatta in particolari situazioni, in particolari condizioni e per particolari tumori. Il tumore della mammella è uno di quelli che si giova maggiormente dal trattamento radioterapico intraoperatorio. Ecco, tu curi in particolare questo trattamento alla mammella, che non è da ora, ma anche quando ti trovavi al civico seguivi questa branca della medicina con passione e quindi con spirito di sacrificio, che è innato proprio con dedizione. Io credo che uno debba fare con con passione il suo lavoro, e questo è il campo nel quale ho da sempre investito la mia professionalità. Presso il San Raffaele di Cefalù è attiva dal 2008 una unità multidisciplinare di senologia che si occupa appunto della diagnosi e della cura, che è chiamata con termine anglosassone Breast Unit, unità di mammella, e nella quale unità confluiscono tante figure professionali appartenenti alle varie discipline coinvolte nel trattamento, dai chirurghi ai radiologi, agli oncologi medici, agli psicologi clinici, ai radioterapisti, al radioterapista. A questo punto mi permetto di ringraziare il dottor Ivan Fazio alla Casa di Cura Macchiarella, con la quale il San Raffaele ha stipulato una convenzione per il trattamento, la medicina nucleare di pertinenza lato, i fisici medici di pertinenza lato, nonché tutto il personale infermieristico, e figura non da poco conto il case manager, cioè la figura mista tra mondo sanitario e amministrativo, che permette appunto alla paziente di avere un costante riferimento in tutto il suo percorso per poter essere affidata passo passo alle procedure diagnostiche e terapeutiche. Tornando al discorso IORT, quindi la procedura è una procedura abbastanza semplice nel suo complesso, perché poi si limita ad un'erogazione di terapie che dura 3 minuti, ma per questi 3 minuti di cura servono... È molto breve, 3 minuti per... Sì, quindi servono particolari attenzioni durante l'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico prevede quindi la contemporanea presenza del terapista, dei fisici medici, dei medici nucleari, e nonché del chirurgo, del radiologo, del tecnico di radiologia medica che si occuperà appunto del posizionamento della macchina, la presenza dell'antropatologo, altra figura importantissima, indispensabile, deve perché deve, quindi deve è un lavoro anche d'equipe, se vogliamo. Tutto un lavoro d'equipe. Io prego Vito Punzi, se vuole può intervenire anche su questo argomento, non ci sono un lavoro d'equipe, ed è giusto, perché ogni passo è condizionato dal risultato che l'altro collega ti dà. Il chirurgo toglie il nodulo tumorale viene immediatamente analizzato dall'antropatologo, che mi dà quindi una sicura bonifica dei margini. I margini devono essere puliti, cioè non ci deve essere tumore sul pezzo restante. Dopodiché molto spesso questa procedura viene fatta in pazienti che godono anche del trattamento della biopsia linfosentinella, quindi la possibilità di poter escidere soltanto un linfonodo piuttosto che tutto l'intero cavascellare. Anche questo prevede che l'anatomopatologo durante l'intervento sezioni tutto l'intero linfonodo per dare in tempi reali, cioè nell'arco di 30 minuti, 40 minuti, quel risultato che normalmente viene fornito invece a distanza di 15 giorni. Anche questa è una procedura assolutamente innovativa, che grazie agli anatomopatologi del San Raffaele prima. Quindi avete risultati prima, cioè 15 giorni prima. Allora, questo esempio ci caratterizza molto rispetto ad altre strutture che operano la mammella. La presenza di una anatomia patologica intraoperatoria ci permette di avere in immediato un risultato sull'infosentinella che quindi contestualizza in ogni momento l'intervento chirurgico. Altrove si fa oggi la dissezione infosentinella, e a distanza di 15 giorni si fa l'intervento chirurgico. Noi qua facciamo contestualmente tutto, quindi l'intervento chirurgico sul cavascellare e la radioterapia. Come funziona poi? Una volta esciso il tumore, una volta avuta la garanzia che il nodulo tumorale è stato completamente asportato, il chirurgo scava all'interno della parete della breccia chirurgica una piccola tasca dentro la quale alloca un disco di piombo. Questo disco di piombo serve appunto a permettere che il fascio radiante che verrà applicato successivamente non vada a danneggiare i tessuti sottostanti, polmone o cuore. E fatta questa piccola incisione con la tasca e quindi inserito il disco di piombo, viene collocato poi questo tubo, un collimatore che ha dei diametri diversi a seconda dell'entità del tumore che si è deciso, viene collocato in perfetta corrispondenza della lesione, viene messa a bordo del collimatore un po' di garzina imbevuta in modo da evitare che il calore possa danneggiare ulteriormente la cute, dopodiché viene o suturata appunto la cute o semplicemente a seconda dell'escissione inserito perfettamente proprio a mo' di guanto questo collimatore all'interno della parete. Dopodiché tutti quanti usciamo, la paziente viene lasciata all'interno della sala operatoria con i monitor al di là della stanza abbiamo quindi il radioterapista e i fisici medici che caso per caso calibrano a seconda dell'entità, della profondità del pezzo che viene appunto misurato come spessore eccetera, viene calcolata la dose che viene erogata. Questa dose viene erogata nell'arco di 3 minuti e dopodiché l'intervento chirurgico prevede il togliere il disco di piombo e quindi la suturazione stessa. Questo l'aort normalmente prevede due modalità, o la modalità esclusiva, che è quella che normalmente stiamo utilizzando e utilizziamo soprattutto su pazienti che poi hanno con questa possibilità, con questa metodica, la possibilità di evitare la radioterapia esterna. La mammella prevede 6 settimane di radioterapia esterna, ogni giorno un'applicazione di 2 minuti, ma ogni giorno, e purtroppo l'unico posto dove poter andare è Bagheria Palermo. Quindi mettiamoci nelle condizioni di pazienti che da posizioni disagiate logisticamente quotidianamente per 6 settimane devono andare a fare la radioterapia. Invece con questo trattamento è unico trattamento intraoperatorio, quindi la paziente, quindi il vantaggio è enorme, certo, come compliance è. Sicuramente aggiungiamoci anche quel minimo vantaggio che razionalmente è identificabile, che ovviamente viene maggiormente preservata la cute, che non viene assolutamente irradiata, e soprattutto la schermatura delle pareti sottostanti, perché c'è un disco di piombo che viene appunto applicato, e la possibilità di erogare proprio sul bersaglio, quindi in maniera assolutamente calzante, il trattamento radiante. Gli effetti collaterali sono assolutamente minimi, tant'è che l'indomani la paziente è a casa. Quindi inoltre abbiamo un ricovero che dura 3 giorni, normalmente martedì, mercoledì c'è intervento e giovedì c'è la dimissione. È un trattamento molto, molto performante, molto compliante sotto questo punto di vista, che ci permette in uno con la garanzia dell'efficacia anche una soddisfazione notevole della paziente. E quindi, ma anche non soltanto dal punto di vista procedurale, nel senso come dicevi tu poc'anzi, ma anche dal punto di vista della salute, qualche piccolo vantaggio rispetto al trattamento tradizionale c'è pure, no? Stavo dicendo, è una procedura che figura ancora tra le metodiche tra virgolette sperimentali, tant'è che non è ben codificato, ad esempio, il DRG che viene dato per questo tipo di patologia. La procedura IORT è stata sperimentata per la prima volta all'Istituto Europeo di Oncologia dal gruppo di Veronesi ed è calzata su pazienti particolari, quindi non è una terapia che si può fare a tutte le donne, purtroppo. Perché? Perché ci devono essere dimensioni contenute in modo da poter applicare un tubo. La lesione non può essere posta in vicinanza del solco sottomammario o in altre posizioni, perché chiaramente ci deve essere la possibilità poi di poter chiudere chirurgicamente in maniera soddisfacente la lesione. Deve essere prognosticamente un tumore che esprime recettori, la presente deve essere menopausa, non deve essere del tipo lobulare. Ci sono tutta una serie di paletti che ci permettono poi di selezionare a maggior ragione il trattamento, certo, su pazienti particolari. Grazie. Sotto il profilo economico e per il sistema sanitario sicuramente si traduce in un grosso risparmio, perché chiaramente teniamo presente che l'applicazione che prevede le 6 settimane di cura si risolvono in un unico e non solo, si deve spostare a Bagheria a Palermo, certo. Ora si evita, quindi è la conferma che investire in ricerca scientifica ci si guadagna. Sicuramente ci si guadagna. Perché non lo capiscono i nostri governi. E sarebbe un grosso danno se la IORT la perdessimo. Ma noi speriamo di non perderla e soprattutto che tu continui a fare queste sperimentazioni positive, questo lo possiamo anche dire, che parte da Veronesi ma che hai dei riflessi a Cefalù, al Civico Ospedale Giglio San Raffaele, dove appunto queste procedure assumono un valore notevole soprattutto per i pazienti che purtroppo sono costretti talvolta a ricorrere ai medici per queste situazioni mammarie. Permettimi di completare l'intervento ricordando un pochettino anche i colleghi, perché non sono io che fa questo. Sì, abbiamo detto col lavoro di equipe, ma fallo pure, perché i chirurghi meritano veramente che siano Filippo, ecco, Di Benedetto e Cinzia Labruzzo, gli oncologi medici Massimiliano Spada e Marco Messina, i medici nucleari Sabina Pulizzi e Vincenzo Tripoli, lo psicologo clinico Gaetano Castronovo, la dottoressa Francesca Ignazzi, il case manager, i fisici medici Giorgio Russo, Gianna Candiano, Francesco Cammarata, i biologi molecolari, gli anatomopatologi, Gentile e Raffaele Genova, il gruppo della disaloperatoria, perché anche questo prevede tempi dedicati espressamente per una procedura complessa. Quindi grazie all'aiuto della dottoressa Di Fiore siamo riusciti a poter calibrare una giornata, la collaborazione del dottor Marchesa, responsabile dell'operatore di chirurgia. Dico, è tutta una serie di figure che poi sono finalizzate a un momento che serve a limitare quanto più possibile il periodo di disagio per la paziente. E noi ci congratuliamo un po' con tutta questa equipe della quale tu hai fatto cenno, per l'opera meritoria che svolgono nei confronti dei nostri pazienti, che tante volte per vicissitudini umane sono costrette a ricorrere alla medicina per cercare di sanare i danni che arrivano in corpo. Mentalmente riflettevo, perché poi non vorrei dimenticare, prego, qualcuno, Livio. E quindi anche i miei colleghi radiologi, sì. Rossella Tinaglia, Valentina Bova, Giovanna Romano, insieme a Dario Sorrentino. Ecco, se no poi dimentichi qualcuno già, e alla fine ecco, è sempre sgradevole. Ringrazio il dottore Il nostro ospedale rimane, scusami Mario, sì. Il nostro ospedale rimane ancora una struttura di eccellenza? Ma sicuramente è così, ma queste io credo che queste trasmissioni sono importanti, perché il segnale che l'eccellenza ci sia e sia ancora mantenuta, anzi si vada sempre oltre, vedi quell'esempio che è successo in cardiologia recentemente, sono segnali importanti che dobbiamo far uscire, perché abbiamo bisogno di confermare, purtroppo in seguito a tutto quello successo, che l'ospedale va sempre avanti, anzi. E deve andare avanti. Grazie. Ecco, ancora. Grazie il De Brando D'Angelo. Vorrei intanto passare due minuti. Oppure ci chiede il regista Angelo Arduino una breve pausa. Intanto noi la facciamo e poi interverrà l'avvocato Vito Punzi. CRM. Pubblicità. Mangiare sano ti aiuta ad affrontare meglio lo stress della vita quotidiana. Rivolgiti con fiducia alla macelleria Arcangelo Cipriano. Sulla tua tavola carni fresche, genuine e certificate provenienti da allevamenti locali. Vitello, agnello, carni bianche, capretti e polli.